Ma provando a fare una sintesi, penso se ne parli con molta enfasi perché la tecnologia digitale, in particolare internet, hanno reso molti di noi, milioni di noi, autori, nel senso che teniamo un blog, facciamo della musica, pubblichiamo delle foto e nel fare ciò e comunicarle al pubblico tramite siti internet, diventiamo autori a tutti gli effetti e quindi ricadiamo sotto la tutela della legge sul diritto d'autore, del copyright negli Stati Uniti, che fino a relativamente pochi anni fa riguardava invece gli operatori professionisti, quindi agenti di artisti, artisti professionisti. Quindi questa normativa che fino a poco tempo fa riguardava pochi, di colpo riguarda molti, anzi potenzialmente tutti, c'è chi dice che il copyright ormai è una questione che riguarda tutti i cittadini. Da questo deriva l'interesse nel capire come il copyright risponde alle esigenze moderne di oggi, di tutti noi, non soltanto più di una ristretta fascia di professionisti, e anche le conseguenti tensioni, i dibattiti su come eventualmente modificare il diritto d'autore per venire incontro alle esigenze di una platea molto ampia di utilizzatori. Quindi l'esplosione dei contenuti ha messo in crisi un sistema legislativo che oramai è troppo vecchio, è evidente che è troppo vecchio. All'interno di questo ampio e possiamo dire complesso dibattito, sono nate le Creative Commons. Che cosa sono e a che cosa servono? Allora, le licenze Creative Commons prodotte da Creative Commons come organizzazione no profit americana coadiuvata da molti gruppi di volontari in giro per il mondo sono delle licenze di diritto d'autore standardizzate, messe a disposizione a titolo gratuito per chiunque voglia mettere a disposizione le proprie opere, come dire, in maniera molto generosa, consentendo di fare quasi tutto. Il motto di Creative Commons è alcuni diritti riservati, ovvero puoi fare tutto tranne alcune poche cose che vengono riservate dall'autore. Quindi Creative Commons fornisce degli strumenti, sta poi all'individuo, all'istituzione, alla pubblica amministrazione, all'azienda, prendere questi strumenti e usarli senza alcuna precondizione, senza registrarsi, senza pagare nulla, senza mettere le opere in un database centralizzato.